dice corretto, ciao Carlo. E prima era gracchiante. Adesso alla grande, adesso la radio è pulita, è chiara, chiara, chiara, lasciala così Antonè. La lascio così, a voglia. Quindi stavi provando un altro apparato? L'87 che sono un apparecchio che non lo uso. Capito? Sono da un bene che l'avevo lasciato da una parte, quindi... Sai, quando non usi gli apparecchi a volte ti fanno difetti strani. Lo so, purtroppo così, magari anche l'umidità, capito, e tante cose, quando non li usi si deposita polvere, eccetera. Quindi ogni tanto meglio farli scaldare piano piano, lo accendi, lo metti in ascolto, poi quando è caldo magari lo provi, altrimenti questi problemini, come hai detto tu, li dà. Sì, mi dava anche il tempo in un periodo, adesso non me la sapiamo. Andavo a parlare, adesso non è uscito. Allora, poi a volte non funzionava neanche la ventola, ho dovuto smontarlo, pulire la ventola, la polvere. Anche perché l'apparecchio è vicino alla finestra, capito? Ecco perché, umidità, roba del genere. Sì, magari come apri la finestra. Poi soprattutto in questi giorni che c'è umido, sta piovendo, meno male, perché di acqua ne avevamo bisogno per i bacini, capito? Però stamattina sono uscito e ogni tanto qualche scroscio d'acqua, eccetera, poi adesso ha mollato un pochettino, infatti c'è il sole. Sì, ce l'abbiamo per tutto il giorno, di acqua. L'ha segnato tutto il giorno. E io mi sono andato stamattina perché un amico mi ha chiesto una di quelle pentole grandi per fare cucina per diverse persone, eccetera. Dice, guarda che ci sono anche in alluminio, cazzo, ma quelle che ho visto erano tutte sottili sottili. Ho detto, queste se le metti sul fornellone, ho detto, si bucano, ho detto, non... Allora ne ho trovato una bella grande in acciaio, capito, e ho preso quella lì, almeno resiste al calore. Quelle là secondo me si sciolgono se le metti sul fornellone. Ah, quelle sono, ma quelle atterenti fini fini, se le metti nel fornello dopo 5 minuti se no trovi il buco, trovi, capito? C'è una mosca girando, mi coglioni, cazzo. Ci pensa, riesco a farlo uscire fuori. E io mi tra una mezz'ora inizio a prepararmi. sera sul turno di lavoro finisco tardi, mezzanotte e mezzo, che abbiamo un volo a mezzanotte. E quindi se è tutto puntuale parte a mezzanotte, tra poi chiudere tutto eccetera, mezzanotte e mezzo, quindi c'è il turno di mezzanotte a mezzo, da mezzanotte a mezzanotte e mezzo rimango da solo, quella mezz'oretta che rimane solo una persona per chiudere, capito? E poi diamo le chiavi a chi fa il turno di notte, se lo bruciano loro. Ah beh, l'importante è che non vedi qualche drone in mezzo alle balle, perché adesso per io i droni, capito? Poi già due giorni che vedono da quella parte lì un paio di missili, chissà che diavolo stanno combinando quelli di Montedoria. Comunque, diciamo, la serata sembra un pochettino meglio adesso col sole, anche se di nuvole ne vedo in giro, capito? E belle cariche, adesso c'è qualche spiraglio di sole che fa piacere a quest'ora. Quindi ho il turno di lavoro dalle 15.30, capito? E quindi ero un po' al computer che mi stavo facendo un po' di simulatore, ne dobbiamo fare un'ora al mese e me la sono finita l'ora di novembre. Solitamente me la faccio entro i primi, perché poi se non ti dimentichi e poi li accumuli, capito? E niente, ero qua al computer mio, acceso la radio e ho sentito la portante, ho detto vediamo chi c'è, prima avevo chiamato ma a quest'ora difficilmente entra qualcuno, Antonè. Sì, a volte già entra qualcuno, io ogni tanto uso il coso, sto usando il PMR con mio nipote, capito? Ci sono dei ragazzi che lavorano lì al bowling, e addirittura uno di quelli dice mi, figurati tu. Dice, quando vuoi passare Antonè, mi ha detto, ti invito da bene, mi ha detto. E poi, quando c'ho tempo, gli ho detto, ti chiamo, ho detto, e passo. E mi ha detto, dice, che entrano alle 5 e mezza di sera, lavoro. E finiscono intorno alla mezzanotte. Eh beh, sì, loro lavorano di sera con le pizze, devono accendere il forno, là al bowling c'hanno il forno a legno, capito? Quindi devono accendere da presto, mandarlo in temperatura, capito? Solitamente iniziano, diciamo, a sfornare verso 7:30-8, adesso che c'è l'orario invernale, già buio, capito? Qualcuno inizia a ordinare pizze per le 8, poi la gente già chi va lì al bowling e vuole cenare alle 8. C'è gente anche che cena anche alle 10. Comunque già va bene, visto che lavorano bene, lavorano. Come tanto detto, vi saluto e poi vi lascio lavorare tra loro, capito? Perché usano l'apparecchio per poter fare le ordinazioni. Tra camerieri, cosa del genere, capito? Portano c'è il pizzaiolo, c'è il portatile e poi c'erano i camerieri, quindi così fanno prima per non stare a salire e scendere, capito? Ho capito. Ma in PRM ce ne sono trasmissioni oppure è sempre tutto silenziato? No, già ci sono privati che usano il PMR. Sì. C'è un bel gente che li usa per i privati. Poi chi lo usa sempre sono io e mio nipote gli ha messo ha pensato la direttiva, gli ha passato il cavo fuori e quindi parlo da sotto e io parlo da sopra, chiamiamo la tele vicino e ci ripartiamo con 4 ore 20 minuti. E ho capito, adesso stavo mettendo un po' a posto qua la scrivania, c'avevo un sacco di carta in giro, adesso inizio a buttare perché dici questa la conservo, quell'altra la lascio e poi alla fine ti rendi conto che stai accumulando, capito, e invece c'è sta roba da buttare, capito, corrispondenza eccetera, addirittura c'ho corrispondenza che non è neanche mia, che la ritiro a un mio amico di Alghero che ha la casa, capito, e mi ha lasciato le chiavi, dice guarda quando ci passi, se c'è posta me la ritiri, capito, lui abita a Caserta, aveva l'appartamento qua ad Alghero e l'ha venduto quest'estate, capito, e adesso c'è la casa l'appartamento della mamma dove ci vive l'altro fratello col quale non si parla, hai capito, e quindi gli arriva ancora un po' di posta, quindi ogni tanto ci passo e c'ho roba di 4-5 lettere che gliele devo mandare, poi oltretutto gliele metto in un bustone e gliele mando. Ti conviene fare così? A me non è più tranquillo. Se lui si è trasferito già gliele mandi e poi già lo riceve, già non è un problema quello. Sì, adesso vedo un po' se con questa radio prendo quelle bande lì del PMR 446, il canale 1 è 446 00625, 446 01875 e via dicendo. Esatto, sì, mia nipote si era ordinato uno di portatile, bello, dalla Cina, fatto dalla 27 MHz fino ai 520, capito? E trasmette e riceve, è bello. Adesso poi il prossimo mese me lo prendo anch'io, l'ha pagato 40 euro l'altro giorno. Arriva il 19 di questo mese. Purtroppo quando li ordini da quei, diciamo, portali lì, AliExpress, passa un sacco di tempo perché praticamente li mandano dalla Cina, poi dalla Cina arrivano a Milano, li ferma la dogana, controllano se ci sono le tasse pagate e tutto quanto, sbloccano, li tengono anche fermi anche 2-3 giorni a volte. Io lo stesso ho ordinato delle cose ma mi sono arrivate dopo settimane, a volte passano anche 2-3 settimane. Adesso ho preso una piccola batteria Panasonic di un orologio della Citizen, quelli che sono a carica solare, no? Non sono batterie normali ma delle piccole batterie che hanno una letta sotto elettrosaldata, capito? E va da incastro in un contatto che praticamente prende la ricarica da lì, capito? Serve come batteria di contenimento. E niente, gli orologiai non ce l'hanno e la devono ordinare anche loro. Di conseguenza, capito, ho detto me la ordino io, l'orologio l'ho già aperto perché c'ho la, diciamo, quella specie di avvetta regolabile per aprire tutti i passi dei vari orologi. Quindi l'ho svizzato, l'ho tolto, ho visto la sigla Panasonic MT621, me l'ha ordinata da AliExpress, 8,50 euro più spedizioni, sotto 13 euro. Se invece la compri su siti italiani ti costa 36 euro con le spese di spedizione, una batteria del Vispero. Già lo so. Qui c'è quel portatile, Daniele l'ha pagato 40 euro. L'ha visto uguale dal sito italiano, costava 100 e passa. Uguale identico, preciso preciso. Adesso appena li arriva, così lo vedo, e intanto si può programmare tramite Bluetooth dal telefonino, figurati, non c'è più adesso il dischetto come una volta, direttamente dal telefonino con Bluetooth prendi e fai la programmazione, oppure basta che c'hai un ricetta trasmettitore, schiacci portante metti il portante in scanner, lui immediatamente come vede il canale piglia, si blocca, se lo memorizza e ce l'hai già pronta, non deve stare a sventiare. Ho capito. Adesso ho provato a impostare su una radio che ho il primo canale TRN, però mi ci vorrebbe un'altra radio. Tu ce l'hai a portata di mano il TRN? Sì, ce l'ho. Se aspetti 2 secondi aggancio anche l'antenna esterna, così diventa più facile. Aspetta. Così facciamo la prova. Non lo so, penso che magari io ti sentirò, ma non so poi se tu, perché questo è un portatile, capito, quindi non so se tu, io ti arrivo lì. Comunque se tu attacchi la esterna, vai sul primo canale, senza toni, senza niente, dovrei sentirti da qua. Ti dovrei sentire, sì. Allora, metto il canale 1, qui dovrebbe essere zero. Canale 1, eccolo qua. Aspetta, un po' di avanti. Ebbene, visto che funziona. Almeno parli anche tu. Non ci sono problemi. Già lo credo, sì, pensavo di non arrivarci da qua là, invece alla grande, capito, perché tu sei anche più in alto di me, quindi io da qua non dovrei avere troppi ostacoli, capito, e anche sono, anche se sono con l'antennino in gomma, capito, già va alla grande, bene me, da così qualche volta possiamo provare anche con la banda PMR. È bello parlare anche là, non è che non sei qui, sia brutto. Anzi, io parlo mica come nipote di là, sul canale 7, non ti rompere il ballo nessuno e parli tranquillo, non c'è problema, non è nulla, ci sentiamo bene di lì. Poi se vuole entrare qualcuno da fuori, basta che si faccia avanti, entra e ci fa compagnia. Sì. E in passato, quando avevo quelle altre radioline, sì, già sentivo, le usavano parecchi, forse nel periodo che c'era la cosa, la pandemia, magari erano quelli della ASL che le usavano, capito? Sentivo le radioline coi toni, capito? In quelle bande lì PMR. Poi non le ho più usate, le avevo tutte date via, capito? Non mi era rimasto più niente. Adesso una portatile, capito? E quindi roba di cineseria anche questa, mi capisco. Io ho tutto come quelli che mi hai fatto a me. Tanto costano una cazzata, costano 2, costano 30 euro, da voi che sia, sono una fesseria. Sono belli da usare, capito? E pompano pure, non so. Con la tenere in gomma arrivi tranquillamente a Palottovers. Io da qua arrivo a Palai. Se usando l'antenna esterna, magari anche qua la posso mettere qualcosina esterna, sempre attaccata alla ringhiera, capito? Dovrei avere giù in garage qualcosina. L'antenna di quella di macchina ci metti con la magnetica e vabbè, funziona benissimo. Una di Hammond, oppure una di quelle antenne come c'è la Marco Condo, c'è la 2 gaffette da agganciare direttamente alla ringhiera e non è neanche tanto alta, mi sembra che è alta neanche 1 metro e funziona benissimo. Sì, me lo stava dicendo anche Marco qualche giorno fa, che lui lo stesso ha messo un antennino fuori e diciamo poco visibile, dice anche piccolino, e già riesce a arrivare lui anche molto bene, un po' lontanino, capito, in TRM. Infatti, proprio quello. Io ho un po' tanto di quelli LPD, se non sembra una scatola di tonno, è un HITER, c'è scritto. C'è l'antenino che è in gomma, corto, ho preso e gli ho fatto la modifica, gli ho fatto l'attacco per l'antenna esterna. L'ho provato, funziona benissimo, c'ha 69 canali, funziona con 3 batterie da 1,5. Ho capito, esci che guardo l'ora. Oh, Antonè, per me si è fatto troppo tardi, mi devo preparare, capito, e tra un po' devo uscire, capito, sono mezzo vestito e mezzo no, adesso mi do una sciacquata veloce, mi ero già sbarbato da stamattina, quindi... D'accordo Antonè, grazie delle 4 chiacchierine, come sempre, nel caso ci sentiamo in questi altri giorni, dai. Domani ho il turno lo stesso di pomeriggio, capito? E se magari dopo pranzo ne hai gana, io già sono in ascolto sul 10, capito? Nel caso ci sentiamo domani. Vabbè, già sono a casa intanto, già tengo il macchino acceso, almeno lo faccio scaldare. Già faccio così, ah. Ci sentiamo domani allora. Stavi bene, buon lavoro, buon tutto. Alle prossime. Va bene, Antonè, alle prossime, a risentirci a casa, se tutto va bene, d'accordo, ciao, grazie della chiacchierata. E di niente, non c'è problema, ok, va bene, ciao Carlo, ci sentiamo, stammi bene, buon tutto, a domani. Beh, Lillo, butta giù la pasta che è pronta. Rigida. Ah, è umida. Oi, fufi. Sono bagnata, sì, stasera. Beh, Lucchino. Beh, Ginko. Tutto a posto, sì. Tutto a posto, si lavora. Meglio così, importante che si lavora. Se non si lavora è peggio. Vabbè. Oh, chiedi chissà chi vuole un televisore, non ne faccio un cazzo io. Uno smart TV HI, 55 pollici. Abbastanza nuovo. Io me la sono comparato, mi ho obbligato un 80 pollici. 80? Non penso via a cosa, a odore. Vabbè. No, ora me ne posso nuda, ne ho due, Emanuele. Lui va. Devo farne fuori, ne ho 3 da 32, questo da 55 e 2 da 24. E poi c'ho il mio un altro da 55. Quello da 55 ma te lo sei dato. Ma 200 lo so portavo via. Ma è giusto, ma se ne cura da rito o lui. Cosa? È troppo 200. Troppo, ma c'è un funere, vai a comprarmi uno smart TV, lo paghi 32 pollici, ma troppo paghi, va? Vabbè, ma non mi bilano nessuno, che si dice. Dai il manichino. Appunto. Non li do a rigare, anzi, già lo stavano 2,20. Non è tu. 200 se lo portano via, se no... Il profilo è solo... Dai il manichino. Allo specchio c'è la... Ma per quanto lo regalo, però non lo do di meno. Che ne dirò tu? Va giù la... si chiama? Ce l'ho io, li tacci. Cazzo. Siamo in vostra, giù due. Un governo. Vabbè, io me l'ho presente per la sala, questo qua, e in camera c'ho 50 pollici della Toshiba. Quanto l'ho sistemato io? Beh, bravo, quello l'ho sistemato tu. E che marca è quello che hai preso 80 pollici? Per la Samsung. Mo' che cosa? È venuto a 1000 euro. Questo è un casino a Kunza, lui, Manuel, ma è tardino, va. Mi si clà. Questo è un casino a Kunza, chi lo debutta da un tecnico? Sì, c'è in ganassia a 6 anni. Ah, no, beh. E tu fatto la ganassia a 6 anni. Per qualsiasi problema? Beh, il problema che succede, se che si teneva la terra non si finisce, no? E hai fatto la casco per caso? Sì, poi ho fatto... come te la casco? Vabbè, se si sfacca, dai. Vabbè, la casco è se lo rompi tu. Già, vabbè, cazzo si danno di garanzia. Quanto hai pagato in più? Sì, ho pagato in più intorno alle quasi 100 euro, dai. Però non manco sei tranquillo. E già va bene, dai. No, poi questo qua, in base al film che metti, si imposta da solo i colori e tutto quanto, senza che tu a importarlo. Ah, automatico. Sì, yeah. Già va bene, dai. Già va bene. Bene, mi stai ascoltando. Ti avevo cambiato la batteria, boh. Va bene? Sì, a voglia. Poi tu stai arrivando bene, dai. Sapevo l'antenino? Sapevissimo. Si ho portato da una cosa. Sapevo 9, sì. E sapevi, ma non ho già toccato nulla. Iaia. Oggi un fame. Voglio un po' di patatina. Mi alzo, mi sto facendo una bracciata di cavallo, un po' di patatine. Che turno hai? Eh? Che turno hai? No, oggi sono di riposo, ho smontato stamattina, i setti, ha giù fatto la nuca rimane. Sempre di là, sì? Sì, yeah. Ah, praticamente sei tutto in macchina, o nel gabbiotto? Sì, ma la notte sto in macchina, non sto nel gabbiotto. Di giorno magari rimango nel gabbiotto. Ti vieni in abbiocco ogni addanto, sì? Beh, la abbiocco che ti vieni, sì. Ma te li fai 2 ore di sonno? No, 2 ore no, però almeno mezz'ora sì. Cazzo, non puoi dormire, se non vuoi aggiustare, cazzo, tu devi farci fare dormire. Lo so, come quello. Ma tu controlli il fotovoltaico? Tutto, tutto il perimetro, tutto il perimetro del fotovoltaico e l'attrezzatura che c'è dentro il cantiere. Qui già entra a furare, no? Sì, il primo periodo sì, ma adesso no, non c'è più nulla, ormai è quasi finito. E come fai Manuel se nel caso vengono i 3 in 4? Come ti fai? Eh? Se nel caso vengono i 3 in 4 lì, ma li vogliono entrare a rubare, tu come fai? E come fai? Apri, se ne esce e chiami i carabinieri, tu non puoi neanche intervenire. Ah ecco, così fai. No, è così che devi fare. Vabbè. Sono ricchi, cazzo, la vita pochi di no. Appunto, ma anche quando sei guardia al massa, loro ti fanno fare il corso, ti dicono come ti devi comportare. E loro ti dicono le stesse cose come ti sto dicendo io. Un casino, è rischioso, poi vabbè, paghi sui tuoi dati, tutti i soldi li fai. Vabbè, io alla fine, Manuel, mi alzo sempre alle 3:20. Tra le 5:20 io alle 9:30 ho finito. 850 non lo so male. Non so male, no. Non so male, no. E io ti ripeto, il lavoro pesante non lo posso più fare, se no tornavo a fare il lavoro che stavo facendo prima. Mi ridirizzo, ma non lo posso più fare. Da quando mi hanno operato la schiena, che ho questo problema alla schiena, poi non posso fare più roba pesante. Beh, un casino, il lavoro è un casino, ma lo si dice, già questo qua è pesante per me. Perché la cesta è pesa, no? Me le carico a 3:00 a 3:00. Alla fine sto rischiando. Spero che non mi si blocchi, non mi si blocchi la schiena come l'altra volta, lo spero. La schiena è brutta, eh. E che lo sa, e chi ce l'ha, lo sa cosa vuol dire. Cazzo. Infatti mi facevamo male, anche l'addome faceva male, lo sa. Cazzo ci manca pigiamini da un letto. No, da me non lo fate mai pure a me, che se roba i vaccini, le braccia mi fanno male. Ma giù ti sei ingrassato, ma non è un po', guè, non vuole la patata asciutta, no? Non ho capito. Giù un po' disingrassato, non vuole la patata asciutta. Ingrassato, mi dici? No, come sei giunto? Che cazzo ingrassato, un pochettino. Un pochettino. Ah, vita Maria, vabbè, noi poi non ci siamo più visti, più sentiti. Cazzo, come ti è diventata? Cazzo, sai cosa manco secco, se vuoi, ma cazzo è diventata, si è fatta brutta, brutta. Cazzo, ma è fea voglia. Si è fatta brutta. Cazzo, ma c'ha manco frega, cazzo, è secca, bro. Chi se lo fuma? Cazzo, adesso quando accade la giro, prendo un caffè, stavo chiacchierando. Cazzo, ma ha ammazzato, si è fumato una dietro l'altra, poi oggi torno in mezzo, già mi ha faccio il tuo metto consigliato che fa di cucina, ma dubbio, ho fatto un gioco più andato. Ah, no, non fa così, cioè, ha avuto sempre problemi con la mamma, con i fratelli, la figlia con lei la apita. Cosa, Manuè? La figlia con lei sta. No. No. Ma no, Manuè. Non fa con lì. Oh, come convive? La bellura. Cazzo, ma 18 anni. Ma 18 anni, aveva più di 20 anni. Oh, cazzo si passano gli anni. Ubi, se passano gli anni. Vabbè, dai, ci sentiamo, Lu, che mi mangio qualche cosa. Via, yeah, alla prossima, Manuè. Ciao. Ciao, ciao, ciao. C'è qualcuno? Signor Gianni, buonasera. Ciao, dottore, allora, come va? Sotto alleva, ero. Sotto alleva, io non ci ripeto. Penso che ci doveva vendeva bruca, ma va veromi. Ma io sono riuscito a fare la spesa dopo pranzo, va verso le 4 così. Un po' stavo più vendo già da allora. Vabbè, con la macchina sono andato a scendere al supermercato, sono entrato in fretta dentro, non mi sono bagnato. Ah, io sono uscito alle 6:25 la signora. Certo. Ma va veromi. Ci ha citato che calmasse. Infatti 5 minuti e poi ha calmato. Sono entrato camminando in macchina. Perché le donne sono fortunate, capito? Quando devo entrare in macchina ha smesso. No, ah, il fatto che quando sono arrivato là, va smesso. Il giorno qua stava cominciando a piovere e torna. Che ci vuole un po' d'acqua là. Ci vuole un po' d'acqua, devono riempire i bacini, si devono seminare adesso. C'è qualche amico che ha seminato, ha detto che non male che a più punto stanno già uscendo i germogli. Ma com'è gli abbia fatto leva al cuga e al bideghinzo? Sennò a rimanere ancora rasciutto. Tu via, ti andiamo bene di baracca. Certo. È vero, la notte stanno chiudendo, i rubinetti stanno chiudendo. E negli altri paesi pure, che sono avvenuti senza eva. C'è anche l'acqua messa in raccolta come si deve raccogliere, invece di farla finire a allagare le strade e nei tombini. Sarebbe stata una cosa diversa. Anche era tutta allagata l'altro giorno. Lo so, me l'hanno fatto vedere. Solo che i raccoglitori dell'acqua non ce n'è qua, non ne abbiamo. E poi ci lamentiamo che non abbiamo acqua, l'acqua non va sprecata, devono fare in modo che si raccolga. Infatti l'acqua piovana deve affluire al depuratore, deve affluire, oppure alla... Devo raccoglierla, ecco. E beh certo, nei bacini. Ma solo che non ce n'è cosa di raccogliere qua, non li hanno fatto. Sta dispersa al mare. Ma non c'è la differenziata fatta l'anno. No, mi sa che faranno prima. Il monte ancora c'è, no, anche. Allora nel monte via Pulizzenda, per la zona di Pulizzenda la fanno a gennaio. E non lo so se è tutta che la fanno, se al monte che è latte dolce. No, latte dolce forse non l'hanno nominato. Io lunedì devo andare alla riunione perché devo sapere come funziona la situazione, perché ci sono delle incognite che non mi quadrano bene. C'è chi dice che per dire il guscio delle cose va messo, come si dice, nell'indifferenziato, c'è chi dice che si mette nell'umido, sia quello che i gusci delle uova, che le lumache, tutto l'altro. io da quanto so quando lo stavano facendo l'umido. C'era che c'erano il guscio delle cozze, le cose andava tutto mischiato in mezzo. Se voi andate a immaginare, guarda. Nelle differenze a. Nell'umido va. Ma nell'umido. Se va poi va macinato va. No, perché io lo vedo secco come materiale, non lo vedo umido, umido posso vedere la buccia delle pere, delle mele, queste cose qua, la pasta, la roba che mangi e che ti rimane. Io so che allora quando stavo lavorando io, nell'umido ci andava anche la buccia delle cose, delle lumache e cose, che poi veniva, quando salivamo su a scaricare, loro ci avevano i cosi per macinarla, che lavavano fine fine. Ho capito, dai. Viene fatta a pezzettini picco. Ci sono dei cruci che bisogna che mi ritolgano la mente, perché per dire la carta che metto sotto le gambe degli uccelli, quella con la cacca per intenderci, quella va buttata in differenziato così. No, la cacca degli uccelli va mischiata in mezzo all'umido, quella lì, è proprio quella che fa coso, che fa proprio concime. Sì, ma c'è la carta che praticamente è sporca di cacca, non è solo le feci, capito? Io gli metto la carta sotto e loro quando cagano va sulla carta. Quella va nella differenziata. Va. Quella va così, va. No, ma poi fatti dare il manuale come si deve fare. Lo danno loro. E per quello sto dando, anche per sapere i giorni, tutto qua. Ma guarda che forse non metteranno contenitori piccoli, metteranno contenitori grandi, come a Sant'Orsola. Contenitori grandi in che senso? Cioè un contenitore dovrà usare 14 persone nel condominio. No, metteranno due contenitori bianchi, due contenitori marrò, due contenitori verdi, due contenitori per il vetro. Metteranno così, metteranno, che sono quelli, come ti diciamo, da 10 litri. Ah, ecco. No, ma c'è scritto di andare a ritirarli lì all'autoparco. Allora sono gli sci minori. Se sono da ritirare, allora sono quelli piccoli, sono. Praticamente ci dovrà pensare il capo condominio al ritiro di queste cose qua, però questo non si fa sentire né vedere, non fa riunione, non fa nulla, cosa risolve, cosa vuoi fare. Quello non deve andare solo lui, devono andare tutti quelli del condominio a ritirarli, non lui. È in diribonini. Sì, ma deve organizzare quando, come, capito? Vabbè, comunque io vado e me lo ritiro, non so dove sia esattamente, dove li danno, però più o meno ho capito che quello, l'entrata è quella dove c'è la chiesa di Matteo Ecclesia lì. La chiesa di Matteo Ecclesia, che ce li hanno loro in coso. Vanno lì su a Luna e Sole. Come a Luna e Sole? Matteo Ecclesia non è su a Luna e Sole. No, voi avete un buon pastore, non Matteo Ecclesia, scusa. Gatta, aggiunto gatta, che me la regano anche i muri. Io so che un pastore è quello di fronte, dovesse entrare nel cancello di fronte alla chiesa. Entrare lì e andare a sinistra, nell'entrata, cioè dopo i baroncelli, c'è un'entrata a sinistra. Dovrebbe essere lì. E lì considera anche le buste, così. Penso di sì, che danno anche le buste, danno. E dovessi portare il carto d'identità e il codice fiscale. Sì, sì, io ce l'ho sempre appreso qui. Perché ti chiedono quelli, ti chiedono. Sì. Ce l'ho sempre appreso io quelli. Il codice fiscale, il carto d'identità ce l'ho sempre nel borsetto. L'ultima volta che sono andato a ritirare i buchi per mia figlia. E... sono entrato e non me ne hanno dato. Ma tanto ci vanno quelle gialle sempre, non vanno pure di diverso colore le buste. Le buste ci vanno per la plastica le gialle, per l'umido ci vanno quelle verdi. Poi va la Parugia come pare gli andiani di Dinesi. Io già vedevo che in Marasciussi, chi raccoglie, avete con quelle della spesa io, e tutte le tazze erano biodegradabili, cosa di giamba. Ma già te le danno le buste, e adoperi quella, adoperi. Tanto, ti deve venire durare, non so se ti deve venire durare un anno. Che te ne tutti le dazzini. Mi pare che c'hai due bacchi ogni agosto, ogni agolori. E allora dico, va bene, dai. Va bene, lo sai cos'è il problema? Che io faccio un po' di plastica, perché a me fa un po' di acqua. E ho paura che non ci stia solo in una busta. Io due volte alla settimana ce la butto la plastica. Ma se i contenitori piccoli, plastica non ci sta tutta. Perché mi sembra che sia ogni giovedì andata, la ritirano. E beh, fuori non si può mettere fuori il contenitore. Lo so, perché da mia figlia passano il giovedì a ritirarla. Asero un montone che facciano in terra. Certo, non ne hai un'idea. Perché sono piccoli i contenitori, nei condomini, sì che si tratta di case singole, case basse, tipo se sei vecchio, roba così, va bene, ma quando sono condomini di 14 persone, 14 famiglie come siamo noi, ci vorrebbero dei cassonetti interni nel cortile e via, è finito lì. No, ma loro no, il giallo non ce l'hanno per niente, quindi la mettono per terra tutta. Quando non metto la gente ce la butta. Ma ti mettono la busta, secondo cosa fai? Sono allora a portatore, se sai cosa facevano, li ho visti io gli spazzini, ero dietro la macchina degli spazzini. Hanno aperto la busta per vedere cosa c'era dentro. Lasciagliela stare quella, e l'hanno lasciata in terra. Vedi, non dovrebbe essere così, perché secondo cosa c'è dentro la busta, nella plastica ci dovrebbe essere la plastica solo, la differenziata, però non dovrebbero lasciarla. No, nella plastica si può mettere il nero, le lattine, tappi di latta, tutte queste cose qua. E invece di rampavare di tutto, lasciamo Fuliani. E c'è gente che non ne fa raccolta differenziata, tipo tu mi sciappai, io l'ho sempre fatta. Da quando l'hanno cominciato l'ho sempre fatta la differenziata, io addirittura ho quei contenitori a piramide, così non ti prendono molto spazio, c'è il posto per metterli, per mettere la roba. E praticamente ci metti la busta dentro. E sono a piramide, non c'erano le bocche per metterci la roba. Poi quando sono pieni li togli e li rimetti la busta nuova, capito? Sono comodi per quello, infatti adesso quelli li dovrò eliminare, perché se ne eliminano questi qua devo eliminare gli altri, un casino. Non so i contenitori, se ti danno quelli per la plastica, mi pare che non te ne danno, ne devi, perché non ve ne so di gialli, ecco cosa è, ne danno soltanto due o tre bidoni danno. E la plastica dei rabboni, no, non ti danno quello del cartone, il cartone devi andare a domandare a Castoni, a Punizzi Nutretto, devi bisogna tutti quelli sigillati, se no te ne prendo, però la produttore ce l'ha così, lo devi anche sigillare. Allora c'è il contenitore marrone, contenitore blu e contenitore verde, no, non ve ne altro. Il blu è per il vetro, così. Sì, il blu è per il vetro. Tre contenitori, ciò che davano. Non ce n'era altro, già lì non ce n'erano. Quindi, cosa ti dati? Per il cartone ti davano la scatola, ti danno. E la plastica di da voi. Fuori, dalla busta. Allora scende la busta. Allora, adesso scende la busta. Che proprio questi contenitori qua non mi sa portare, col vento volano, si sbattono alle macchine, i proprietari delle macchine cercando il proprietario del cassa del coso, del contenitore, perché gli ha sfasciato per dire il faro, roba del genere. Io l'ho visto queste studie, perché a Promotore qui c'è molto vento e succedeva, volavano in mezzo alla strada. Sì, no. Loro passano a una certa ora, la mattina passano, e tu gliele devi lasciare la notte. E la notte rilasci, la mattina le ventilate, ti devi subito ritirare, come passano le devi ritirare, perché sennò se c'è vento e roba del genere succede un casino. Da cui ringare, ci fate la biscianda sopra, ti devi arringare, le gassolette pisciate da ringare, uff. Io non la vedo una cosa buona, per colpa di questi quattro imbecilli che ci buttano la roba mischiata, che vengono dalle campagne, dai paesi, vengono di notte e buttano le buste con le nere che non si possono usare, quei bustoni grandi, tutti pieni mischiati di roba. Per quello che hanno fatto questa raccolta differenziata a parte, perché se no la differenziata si faceva già, se uno la faceva bene nei cassonetti, era già differenziata la roba. Se sai quanto ne passano qua nella via qua dietro davanti, qua da dove abito io prima del ponte c'è la telecamera prima lì, ma se non ti se ne vengono, ah, se il giorno si sono fermati i baroncelli, si sono fermati, io ho fatto accidota di contravvenzioni, si sono fatti certo, è poco un anivato, allora uno dice prima di un furgone e va via, un furgone è pieno di gassoni, va via 1500 euro di multa ci hanno pigliato. Ecco, buonasera a tutti. Buonasera, Sampi. E a parole, a Perifella, a me Perifella. Ciao a tu, siamo abituati a voi. No. C'è Tone Squalo e io e basta. Poi ci saranno quelli che ascoltano e non entrano. Allora, buon pomeriggio anche a Tone Squalo, qua a San Pedro Sorso, ora. Sì, ciao Sampi, buonasera anche a te. Mi sentito? Ad Abelidanto. Perché cavolo c'è freddo in questo camerone, allora ci ho fatto piazzare una stufa a pelle, se chissà che non mi guzia. E che non si può mettere girare rosso, se no la che folletto a che mezzo grumiglio, me l'avevo fatta a rughe. Va, quello bianco di rubelletto, no, da, come ti dici? Nel senso che si tratta da tipo fornetto qui. Noi lo sai dove la facevamo, la cucina economica, quella era a casa di mamma, c'è un uomo, la cucina economica, quella che tu vivi. C'erano dei cerchi, tu vivi, li mettevi la graticola e cucinavi, ma non te lavora la roba. Poi c'era il forno per fare l'agnello e cose del genere a fianco. Poi c'era, nei tubi c'era i ferri per asciugare la roba, c'era la molla a causa dell'acqua calda, insomma c'era tutto, dai. Tipo quella stufetta così c'era giù in cucina, tipo una nordica che metti la legna, al fianco c'è il fornetto, e sopra ci sono tipo i cerchietti, a un fianco lo scaldavivanni, di chi sta si disegna? Che era la stufa economica, quella antica, io sto dicendo, la mia era Necchi, me lo ricordo ancora, o Necchi o Becchi, adesso non mi ricordo. Chi si sotto, la sera si può una sveglia di cucumetto, o un po' di di coscette di pollo, qualche cosa, sai, io buona di due. Ma sai cos'era la cosa brutta? Che quando c'era vento contrario ti si entrava un buco dentro un gas e ti fumigava tutta la casa. E in più la legna, che quando arrivava nella legna aveva sempre la formicola di chi c'è Gabirruglio, castigliava la casa di formica. Vero, vero, affermativo, è vero, a chi dà il babbo a stare la cassetta della legna, come dei gusti, sai, come se la legna sta passata, fai ragione, ci sono i fulmiguri, che cosa riga. E quando c'è tutto il contrario, di tipo maltrari o greccare, che si pianava la casa, tipo chissà degli indiani. Infatti ne ho provate le finestre, però guarda, scaldava bene la casa perché la tubazione partiva dal soggiorno e andava a finire in cucina. In cucina c'era lo scarico per la fumaiolo, dai. E c'era la canna fumaria, dai. E praticamente prendeva tutto e scaldava bene l'ambiente. Poi l'abbiamo dato, abbiamo preso la stufa a kerosene, ma la usciamo in vasto, fa calendarmi a viaggio. Sì, vero, la stufa a kerosene va di gago, quando la accendi e quando la chiudi. E poi però, non lo so, si scaldi troppo in maniera chimica a me. E quindi, no, vista no, ce l'aveva proprio mio fratello, ma io no, non mi piaceva questa stufa, no, non mi è mai piaciuta. Una volta mamma si è fuggita al volo, corri, sta prendendo fuoco tutto, cazzo, la fiamma fuori, stavo uscendo. Fuori la fiamma fuori, cazzo, non ci sono da subito. Poi, per carità di Dio, e mamma non ne voglio più sapere, tu di mamma dai piedi non la voglio più. E dai, ti dici, la padrona di casa non ne vuole, non ne vuole, non è venuta da fare. E si è asciugata come ti avevo la fiammata. Beh, perché quelle lì c'hanno tipo lo scodellino, secondo come si muovi che ne c'ha fuori, da che è tipo incendiabile, attendi subito. Ah, va, detto. Ehi, è così, ce l'ha avuto mio padre, ce l'ha avuto quella, la stufa, in cucina, che veramente dalla cucina l'avevamo trasformata.